Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Marco Amenta, regista del film Anna, in uscita in Sardegna giovedì 6 giugno e nel resto del paese giovedì 13 giugno 2024. Ben trovato! Grazie, salve a tutti. Sono sempre contento che la vostra radio mi segue e apprezza i miei film. Io apprezzo, insomma, la vostra radio. Marco, è un piacere averti qui. Complimenti per il film. Cosa hai raccontato? Spieghiamolo. Questa volta sono tornato un po' sui temi del mio primo film, che era La siciliana ribelle, no? Quella ragazza che si ribella contro la mafia negli anni 90. Qua invece siamo in Sardegna, però c'è sempre una ragazza forte, testarda, a volte spigolosa, anche in conflitto con tutti, che si ribella contro un potere maschilista che anche si manifesta attraverso il potere di un resort che vuole distruggere la sua terra, fregandosene, imbrogliando sui diritti, sui contratti, vuole costruire un resort turistico, insomma, distruggendo la terra che lei ama e la sua fattoria dove lei vive allevando le capre, la fattoria che le aveva lasciato il padre. È una donna che si ribella a questo potere, però c'è anche la ribellione al maschilismo, perché scopriremo che nel passato lei ha subito violenza e quindi questa seconda violenza sulla sua terra lei la vive come una violenza su se stessa. C'è questa metafora fra violenza sul corpo femminile e violenza sulla terra che si avvicinano quasi, e quindi la sua diventa una battaglia per la sua libertà, per la sua emancipazione. Questa volta lei dice no. Nei titoli di coda apprendiamo che è ispirato a fatti veri. Come nasce il progetto? Avevo visto questa storia in Sardegna, la storia originaria era di un vecchio pastore che si ribella a una multinazionale che vuole costruire un resort sul suo terreno, no? E fa una battaglia tipo David contro Golia, questa era la storia vera. E io l'ho trasfigurata in una ragazza, insomma, nella figlia, e l'ho trasportata al femminile perché ho unito anche questa lotta contro il maschilismo. Ma è una storia universale, in realtà, di storie di David contro Golia che si oppongono alla speculazione edilizia, purtroppo ne abbiamo tante e perdono quasi sempre in tutto il meridione d'Italia, in Sardegna, in Sicilia, ma in tutto il mondo, nella foresta amazzonica. Quindi il tema ambientalistico della difesa della terra è un tema universale. Infatti il film sta girando nei festival in giro per il mondo, sta vincendo tanto premi. Io l'ho accompagnato in Brasile, insomma in Francia, e devo dire che il pubblico lo accoglie perché sono proprio temi universali. Purtroppo la battaglia per l'ambiente oggi, credo che sia tra l'altro la giornata mondiale per l'ambiente, è un tema universale e importante. Sì, poi specialmente in Sardegna la questione dei pastori che hanno subito torti e soprusi dai militari per tutte le aree che sono state chiuse alla cittadinanza, all'uso pubblico, sono tante. È una battaglia che va avanti da decenni. Sì, prima c'è stata la speculazione sulla Costa Smeralda, che con la Dacan era iniziata forse in maniera un po' oculata, diciamo, la Dacan voleva cercare di rendere bello quel posto, poi però è arrivato la speculazione dei grandi hotel della Costa Smeralda che l'hanno distrutta e quindi hanno distrutto tutta l'economia locale, la pastorizia, eccetera. Poi sono arrivati i militari, insomma, le industrie, no? Come in Sardegna, al sud, le industrie e anche sì, l'occupazione militare, ci sono tantissime basi militari in Sardegna. E in ultimo continua ora la speculazione edilizia. In Sardegna devo dire che in tutto il sud soprattutto adesso i sardi stanno resistendo a questa occupazione edilizia, mentre per esempio in Sicilia la battaglia è persa, insomma le coste sono state completamente distrutte anche in Campania dagli ecomostri e dalla speculazione edilizia. Tra l'altro molti governi assecondano questa speculazione sulle coste e fanno leggi che permettono la costruzione oppure chiudono un occhio, cosa sbagliatissima, perché distruggiamo il nostro patrimonio ambientale che è una delle ricchezze del nostro paese. E quindi invece in Sardegna stanno resistendo, la battaglia non è ancora persa per fortuna. Appena ci siamo sentiti, ti ho fatto i complimenti dicendoti che non sembra neanche un film di finzione, è girato in lingua. Raccontaci un po' la lunga preparazione. Ho scelto degli attori sardi, alcuni degli attori professionisti, altri non professionisti. Per metà il film è girato in lingua sarda, proprio per dare autenticità e verità, perché i pastori, insomma la gente del luogo, non può parlare italiano, deve parlare la lingua sarda, come in Gomorra ormai parlano napoletano stretto, ormai il dialetto è sdoganato ed è accettato al cinema e anche in TV, e dà un'autenticità che è impossibile avere con la lingua italiana, quella delle regioni, anche da nessuna parte. E poi ho lavorato con gli attori, con gli animali, cioè abbiamo fatto tantissime prove per mesi per abituare gli attori, l'attrice soprattutto, alle capre, agli animali, ma anche le capre a noi, perché le capre non sono addomesticate, quindi ci è voluto molto tempo affinché loro si fidassero di noi, venissero a mangiare dalle mani della pastora, di Anna, della protagonista, ed è stato quindi un lavoro immersivo e tanto bellissimo, perché mi ha permesso di vivere mesi immerso nella campagna come vive lei, e questo ha dato sì l'atmosfera del film, che poi riesce a essere molto vera. Molti mi chiedevano infatti, vedendo il film, se fosse una vera pastora, invece no, lei è un'attrice che abita a Cagliari e quindi è finzione. Però il lavoro, come fanno gli inglesi, il regista Mike Lee per esempio o altri, lavorano tanto sulle ripetizioni, sulle prove con gli attori, anche nel luogo, esatto, e quindi si raggiunge una veridicità. E poi il lavoro della macchina da presa è stato quello di assecondare gli attori, cioè non bloccarli in posizioni prestabilite come il vecchio Hollywood con le luci, ma loro erano liberi di muoversi nello spazio, eravamo noi con la macchina da presa a seguire loro quasi come fosse un documentario, però in realtà è tutto ricostruito, cioè c'è un copione, c'è una struttura drammaturgica, e però la sensazione è quella quasi di un documentario, perché le azioni si svolgevano quasi con verità e noi con la telecamera eravamo nascosti a seguire questa realtà. Dici di questa doppia uscita, in quante sale sarà? In Sardegna, in tutte le città, esce a Cagliari, a Sassari, a Oristano, a Nuoro, a Olbia, quindi la Sardegna è completamente coperta. Poi inizieremo anche il tour in Italia, dove uscirà Roma, Torino, Milano, Palermo, insomma, e faremo il giro di tante altre città. Ci seguirete sui social di Fandango, che è il distributore, o Eurofilm, o la mia pagina Marco.Menta su Instagram, avrete gli aggiornamenti. Però sì, faremo il giro d'Italia, perché è il film, come dicevo, film universale che insomma, sta piacendo al pubblico di tutta Italia e di tutto il mondo. Ha vinto vari premi non solo a Venezia, ma anche a Porretta Terme, in Francia, a Houston, negli Stati Uniti, insomma. Sto vedendo che il pubblico di varie età e varie estrazioni sociali o varie nazioni lo apprezza. Il film Anna, in uscita in Sardegna giovedì 6 giugno e nel resto del paese giovedì 13 giugno 2024. Un saluto e un ringraziamento alla regista Marco Amenta. A presto! Grazie, a presto a voi. Con Valentina Signorelli, co-regista del documentario Made in Dreams, al cinema da giovedì 6 giugno 2024, ben trovata. Ciao, grazie mille per l'invito. Cosa hai raccontato? È una storia vera, praticamente sconosciuta, però incredibile. Appunto la storia vera di Amadeo Peter Giannini, figlio di migranti italiani a San Francisco e fondatore di Bank of America, la prima banca a finanziare in maniera etica e a dare quindi accesso al credito a milioni di migranti, ma non solo, è stata la prima banca anche a finanziare Hollywood, Chaplin, Capra, Walt Disney, tutti devono la propria carriera alla lungimiranza di Amadeo Peter Giannini, che ha permesso loro di accedere ai primi prestiti cinematografici per produrre i loro film. Inoltre Giannini è stato anche un visionario dal punto di vista delle opere pubbliche, grazie a lui si esiste il Golden Gate Bridge costruito durante la Grande Depressione, ed è anche uno dei principali investitori per il piano Marshall e quindi la ricostruzione d'Europa. Come avete conosciuto questa storia e come avete deciso di filmarla? Il progetto è girato da me insieme a Cecilia Zuppelletto. Io conosco Cecilia da ormai una decina d'anni, vivo a Los Angeles 10 anni e ci siamo conosciuti all'università. A marzo 2020, durante il primo lockdown che ovviamente ci ha impedito di poter rientrare in Italia, abbiamo per caso scoperto la storia online e abbiamo pensato che fosse una storia incredibile, perché ci sono tutti gli elementi, insomma, per un grande film. E a poco siamo andati a mettere insieme il nostro film girando negli Stati Uniti, per esempio la possibilità di girare all'interno degli archivi dell'Academy, quindi molti dei materiali cinematografici che vedrete per la prima volta sono stati digitalizzati per noi e sono completamente inediti. Come l'avete strutturato? Siccome questa è una storia poco conosciuta, seguiamo due fili. Uno, quello cronologico, che appunto ripercorre la grande migrazione italiana verso gli Stati Uniti da appunto la caccia all'oro nella seconda metà dell'Ottocento, passando attraverso appunto la fondazione di Bank of Italy, che è trasformata in Bank of America nel 1904. Parliamo del terremoto di San Francisco che ha distrutto la città nel 1906. Tocchiamo appunto le decadi anche dell'espansione bancaria, del crollo dell'economia nel 29, la seconda guerra mondiale, e terminiamo con appunto la morte di Amadeo Peter Giannini, che avviene poco dopo la fine della guerra nel 1949. Parallelamente a questo, quindi alla ricostruzione storica, abbiamo avuto la grandissima fortuna di poter conoscere tantissimi discendenti dell'attività italo-americana, che ancora oggi, dopo 4-5 generazioni, portano avanti le stesse attività che i loro bisnonni e trisnonni hanno potuto avviare grazie a questi prestiti con una stretta di mano venivano in da Bank of Italy e poi da Bank of America. Quindi diciamo, questo doppio filone non è un documentario storico tradizionale, perché c'è anche una parte molto contemporanea su quello che è l'eredità materiale di questo tipo di visione del mondo, che ha permesso appunto a milioni di migranti di vivere il sogno americano. Quali altre fonti avete avuto? Abbiamo avuto la possibilità di intervistare Francesca Valente, che è l'autrice di una biografia di Amadeo Peter Giannini, una delle pochissime biografie presenti sul mercato italiano, ma come dicevo abbiamo avuto accesso anche agli archivi dell'Academy, quindi siamo stati a Hollywood e a Beverly Hills per poter consultare quelli che sono i loro archivi, intervistare gli archivi dell'Academy, perché l'Academy, che è stata fondata da Douglas Fairbanks, per esempio, nessuno sa che è stata tramite un press elargito da Bank of Italy, quindi di base è grazie ai milioni di migranti italiani negli Stati Uniti se un'impresa così iconica è stata portata a termine. Quindi sicuramente gli archivi dell'Academy e la loro testimonianza è stata fondamentale per il film. E poi, come ti dicevo, appunto le fonti dirette dei discendenti italoamericani, quindi dai ristoratori ai poliziotti agli agricoltori, ci siamo girati tutta la California da nord a sud per poter ricostruire questa storia. E poi una piccola parte è girata anche in Italia, al porto di Genova e a Favara di Malvaro, che è questo piccolo paesino in provincia di Genova dove la storia in realtà inizia, perché la famiglia di Amadeo Peter Giannini proviene appunto da Favara di Malvaro. Lui è nato 2 giorni dopo che è arrivato in California, e quindi ci sembrava giusto anche dare spazio a quello che è stato il porto di Genova e la Liguria in generale come punto di partenza per la grande migrazione italiana, insieme ad altre città ovviamente, però il porto di Genova è rimasto un po' nell'immaginario collettivo per questo motivo. Che impressioni ne hai ricavato da questa figura? Questa è una domanda molto interessante, perché noi quando siamo andati a girare questo documentario pensavamo di girare un documentario storico o comunque spostato nel passato. In realtà, soprattutto a San Francisco, tutti conoscono Amadeo Peter Giannini. Il centro finanziario di San Francisco è costruito attorno alla piazza dedicata ad Amadeo Peter Giannini. Non solo di italo-americana, ma anche per esempio molte delle persone della comunità cinese di San Francisco, altrettanto consistente, ma anche molti ispanici, tutti conoscono la figura di Amadeo Peter Giannini, quasi mitologica, come può essere per esempio quella di Steve Jobs, sempre nella bandiera, in maniera abbastanza, in modo più contemporaneo. Quindi la cosa interessante è che noi quando siamo andati a girare avevamo tutte le nostre, i nostri piani di lavorazione, le nostre interviste più istituzionali con l'Academy, con l'Università di Berkeley, tutte pianificate, ma una volta arrivati in California siamo stati approcciati giorno dopo giorno dai discendenti della comunità americana che non si conoscevano tra di loro, ma si era sparsa la voce che qualcuno voleva raccontare la storia di Amadeo Peter Giannini, e si sono fatti avanti non solo per darci la loro testimonianza, ma anche ci hanno messo a disposizione tutti i loro archivi familiari, quindi le foto dei parenti, bisnonni, trisnonni, ma soprattutto anche i primissimi assegni, oppure le cambiali, tutte le testimonianze che ha permesso ai loro antenati di potersi emancipare a livello economico, a tal punto che molti conservano ancora appunto castelli incorniciati in casa. E quindi l'impressione che mi sono fatta è che questa storia è una storia veramente straordinaria e merita di essere restituita all'Italia, dove tutto è iniziato, insomma. Che distribuzione farete? Abbiamo fatto una buona anteprima, siamo andati in tour a ottobre 2023, quindi qualche mese fa, per gli Stati Uniti. Abbiamo fatto la nostra premiera a New York, siamo stati a Washington, a San Francisco, a Niles, a Chicago, tutte insomma le città che hanno una storia, no, di comunità americana. In America abbiamo avuto un'ottima ricezione, abbiamo fatto un tour sold out, con purtroppo molte rimaste anche fuori perché non c'erano più biglietti. E in Italia ora, con la premiera a Roma al Cinema delle Province, poi il film rimane in sala per tutto il weekend a Roma, e utilizziamo lo stesso modo, cioè viaggiamo di giorno in giorno per tutto il mese di giugno in diverse città italiane. Toccheremo per esempio Perugia, Bologna, Treviso, Firenze, Bergamo, Palermo, Acquaviva e Fonti e così via. Quindi iniziamo con una distribuzione in sala perché pensiamo che non solo il film sia concepito per essere visto al cinema, ma visti materiali d'archivio inediti, materiali anche che raccontano e che mostrano giovani Charlie Chaplin, giovani Walt Disney, meritino di essere visti sul grande schermo. Quindi faremo questo primo tour promozionale italiano, questa prima uscita in sala per tutto il mese di giugno, e a seconda della risposta del pubblico rimarremo penso in sala per l'estate, e poi capiremo in quale piattaforma o quale destinazione on demand oppure televisiva riusciremo a concludere per la fine dell'anno. Ci dai tutti i riferimenti internet per sapere qualcosa in più? Il titolo esteso è Made in Dreams, l'italiano che ha costruito l'America. Potete trovare maggiori informazioni sulle pagine social e i siti internet della mia casa di produzione, Daytona. E sul nostro store, Daytona Store, il pubblico ha la possibilità di acquistare una prevendita in tre tipologie. Prevendite che ovviamente comprendono il biglietto in sala, ma anche parte del merchandising che abbiamo organizzato, quindi tra maschere, cappellini, calamite, cartoline. E quindi hanno la possibilità di rifarsi un posto in sala prima che il film arrivi fisicamente nei prossimi giorni in Italia. Sulle pagine social, appunto quella di Daytona, e in particolar modo Instagram, trovate tutti gli aggiornamenti in questi giorni live. Giorno per giorno insomma ci potete seguire. Poi siamo stati anche ospiti di Gigi Marzullo al cinematografo, e in questi giorni si potrà vedere anche vari contenuti che abbiamo realizzato in puntata con ulteriori informazioni sul film. Il documentario Made in Dreams, l'italiano che ha costruito l'America, al cinema da giovedì 6 giugno 2024. Un saluto e un ringraziamento alla coregista Valentina Signorelli. A presto! Grazie a voi, vi aspettiamo al cinema. Con Stefano Di Polito, regista del documentario La voce di Ventotene, in tour dal 9 aprile 2024, ben trovato. Eccomi, sono qui. Che racconto è stato il tuo? È una ricerca che io ho fatto frequentando l'isola di Ventotene e che ho voluto un po' restituire anche allo spettatore, e sono stato aiutato da chi vive oggi a Ventotene e che ha una memoria importantissima da divulgare, che è la memoria collegata al confino politico di Ventotene, un'esperienza che durò 4 anni e dalla quale è nata, anche se sembra un'esagerazione, l'Italia e l'Europa, e quindi una storia molto, molto importante. A Ventotene nel 1939 furono trasferiti tutti i confinati politici antifascisti, quindi 800 persone, in un'isola minuscola, e sono gli esponenti dell'antifascismo più importanti, quindi da Pertini, Di Vittorio, Camilla Ravera, Terracini che firmò la Costituzione, Giovanni Pesce, e poi quelli che hanno firmato il manifesto di Ventotene, che sono Spinelli, Rossi, Colorni, Ursula Hirschman. E quindi queste persone in quegli anni, in mezzo a durissime restrizioni, riuscirono comunque a confrontarsi politicamente, fecero una scuola politica clandestina con dei libri clandestini, in una biblioteca, e in 4 anni progettarono come liberarsi del fascismo, pensarono alla Costituzione per primi e soprattutto col manifesto di Ventotene pensarono ai popoli uniti d'Europa, al di là delle nazioni, superando le nazioni, per arrivare alla pace. Quindi una storia incredibile di cui dovremmo essere orgogliosi, che è stata lentamente rimossa. Com'è nata l'idea di farne un documentario? Era un po' un destino che probabilmente avevo, no? Come tutte le opere d'arte. E quindi io sono stato sull'isola di Ventotene, ha tratto un po' di più degli aspetti naturalistici, perché è una riserva marina e perché c'è anche un'attività di inanellamento degli uccelli, che è una rotta di migrazione. Però lì ho incontrato il sindaco di allora, il consigliere comunale di allora, che mi chiesero proprio di aiutarli a raccogliere le ultime testimonianze degli anziani dell'isola, ormai novantenni, che avevano incontrato questi personaggi così importanti per la nostra storia, no? E lì mi sono reso conto che avevo una grande fortuna e anche un debito nei confronti di queste persone. Quindi sono partito in maniera libera, indipendente, proprio in omaggio all'idea della libertà, e poi è arrivata una casa di produzione. Però ho deciso che non bisognava fare calcoli, era un grande onore poter fare questo racconto, poter salvare questa memoria. E così ho coinvolto il libraio dell'isola, che è anche editore, un libraio molto famoso, si chiama Fabio Masi, che ha vinto anche un premio come libraio dell'anno nel 2022, perché su un'isola minuscola c'è una libreria e una casa editrice, e lui ha già ripubblicato tutta una serie di testi di legati al confino, scritti da questi straordinari uomini e queste straordinarie donne, e poi coinvolto la storica dell'isola, che è una maestra delle elementari, Filomena Gargiulo, che aveva salvato le memorie di tutti gli anziani, e poi il direttore della fotografia, anche lui abita Ventotene, si chiama Alessio Castagna, bravissimo, straordinario, e quindi è nata con gli abitanti di Ventotene, che è la cosa più bella, e sono stato molto molto con loro, sono stato tantissime volte, soprattutto nei periodi invernali, quando in titolo arrivano decine di persone e i rapporti diventano intensi, e quell'isola ti porta a immaginare qualcosa che non c'è. Come lo hai strutturato il documentario? È un documentario storico, per cui c'era la necessità di salvare una storia importante, è stata cancellata dal fascismo e da quello che è successo dopo il fascismo, per cui improvvisamente negli anni 70 hanno buttato giù di notte, c'è questo racconto, i casermoni dove c'erano confinati, e hanno cancellato la storia, cioè la storia dell'Europa e la storia dell'Italia, cancellata in una notte, quindi da quel giorno lì non c'era più traccia. E quindi da una parte c'è stata una ricostruzione storica andando a cercare dei testi, dei libri, delle fotografie, dei materiali negli archivi, però secondo me era molto più importante ricontestualizzarla all'oggi, e quindi ho lavorato sull'idea del confino, perché noi arrivavamo dal Covid, no? Io sono partito prima, però poi ho attraversato anche quella fase lì, e quindi il confino era qualcosa che forse ancora oggi riusciamo a capire che cosa può essere, cosa poteva voler dire stare fermi. Loro sono stati 4 anni in un confino, e poi purtroppo è scoppiata la guerra, e quindi questa storia è diventata subito vicina. Questi 80 anni sembrano ieri, purtroppo, perché noi viviamo in un'epoca di guerra. E allora ho deciso che questi libri, questi testi, queste memorie venissero recitati da chi abita oggi a Ventotene, e molte anche dai giovani, per riportarli all'oggi, quindi senza vestiti d'epoca, senza ricostruzioni, ma proprio con la voce di chi ci vive oggi e di chi con grande emozione sa che quell'isola si è fatta la storia italiana ed europea. Quindi c'è un lavoro di ricerca meticoloso e di salvataggio, del recupero di una storia rimossa, e poi un lavoro contemporaneo che abbraccia purtroppo delle problematiche urgenti come quelle della guerra, degli armamenti, il pericolo nucleare, il bisogno di pace e di unione. Quali sono secondo te gli elementi qualificanti di quel progetto europeo? La cosa che stupisce di più, l'utopia, ma il sogno grande che c'era, di unire l'Europa superando le nazioni. Quindi l'idea che ebbero in particolare Spinelli con Rossi e Colorni era proprio un'idea di andare oltre la nazione, no? E il fatto che l'abbiano avuto durante una guerra, quando le nazioni si odiavano, era straordinario. Cioè, quindi, come dire, riuscire a superare il concetto di nazione, parlare di persone, di esseri umani, di popoli. Ed era quella la loro grande visione, era quella la loro visione. Non si è compiuta e loro sentivano profondamente il pericolo di una nuova guerra. E quindi dicevano che l'unico modo per evitare una nuova guerra era contrapporre agli Stati Uniti e all'Unione Sovietica gli Stati Uniti d'Europa, e questa cosa non è stata fatta. Io la prima tappa del tour l'ho fatta a Bruxelles, al Parlamento Europeo, ed è stato molto molto emozionante entrare al Parlamento Europeo e trovare all'ingresso una scritta gigantesca Altiero Spinelli, ma non una targa, una scritta enorme Altiero Spinelli. E come dire che questa storia è una storia che è più conosciuta in Europa, a Bruxelles, che in Italia. E questo è l'elemento più forte della loro visione che è portato all'Unione Europea. L'altro aspetto era collegato a tutto quello che tutti hanno fatto al di là dell'Unione Europea, e cioè queste erano persone che arrivavano da anni di carcere durissimo, quindi il confine arrivava dopo periodi lunghi di carcere, 10 anni di carcere almeno, e quindi erano persone provate che per combattere il fascismo avevano rinunciato a tutto, e nonostante questo appena insomma riuscirono dopo l'arresto di Mussolini a lasciare l'isola, tutti iniziarono a combattere per la liberazione. Alcuni purtroppo morirono anche in maniera drammatica, in particolare il bibliotecario dell'isola, no? Che era organizzato dalla biblioteca clandestina, Mario Mauvert, oppure Colorni, che fu fucilato, torturati, fucilati. E gli altri che sopravvissero riuscirono a fare delle cose incredibili. Da Pertini, che è diventato poi lentamente Presidente della Repubblica, Camilla Ravera, la prima femminista in Italia, Terracini, che firmò la Costituzione italiana. E quindi, insomma, noi abbiamo un debito enorme. Allora, il tentativo è di fornire il più possibile uno strumento che possa riaprire questa pagina di storia e farci risentire fieramente antifascisti e farci riscoprire orgogliosamente italiani perché abbiamo fondato l'Unione Europea. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più sul tuo documentario? Noi abbiamo questo tour che non finirà mai, perché si chiama Dai Voce, no? Diffondi la voce di Ventotene. Noi siamo partiti ad aprile da Bruxelles, abbiamo nel mirino, tra virgolette, una splendida proiezione che faremo a Ventotene nei primi giorni di agosto, e nel frattempo stiamo girando l'Italia e possiamo accogliere le richieste di tutti coloro che vogliono vedere il film o sulla pagina web che è la mia personale, stefanodipolito.it, oppure la voce di Ventotene su Instagram, su Facebook, dove raccontiamo il tour e raccontiamo alcune pagine di questa storia. È un altro lavoro che stiamo facendo, per fortuna, e con le scuole, in particolare le scuole superiori e le scuole dei ragazzi che quest'anno voteranno per la prima volta proprio le elezioni europee, per cui migliaia di studenti hanno già visto il film, lo hanno apprezzato molto, è stato apprezzato anche dagli insegnanti, e anche su quello continuiamo. Quindi chi vuole portare il film all'interno di progetti, creando appunto collaborazioni oppure nelle singole classi, può contattarci. Per noi è un debito, come dicevo prima, che dobbiamo onorare. E quindi lo facciamo e ci siamo. Il documentario La voce di Ventotene in tour dal 9 aprile 2024. Un saluto e un ringraziamento al regista Stefano Dipolito. A presto! Grazie, grazie a voi! Co-regista Alessandro Rossi sul suo documentario Arrivederci Berlinguer, al cinema dal 10 al 12 giugno 2024 con Wanted Cinema. Ben trovato. Ciao Federico, grazie per l'invito, sempre molto gradito. Che storia avete raccontato? Tutto parte da un'idea di Luca Ricciardi di Amod e Riccardo Costantini di Pordenone Docs Fest. Ed è l'idea di riattualizzare e rimontare un film importante della storia del documentario italiano, che è L'addio a Berlinguer, realizzato da un numero considerevole di registi importanti, da Bertolucci al compianto Cito Maselli e tanti altri, in occasione del funerale di Enrico Berlinguer nel 1934. Come avete lavorato all'idea? Siamo partiti da quel documento, che è un documento filmico molto importante, scegliendone alcune parti, quelle che ci sembravano più vicine ai sentimenti contemporanei, sia per tematiche che per sguardo registico, e li abbiamo miscelati unite a una selezione di interventi e interviste di Enrico Berlinguer, sempre presi dall'archivio audiovisivo del Movimento Operaio Democratico, nei quali Berlinguer affronta i temi del presente, però li affronta 40 anni fa, insomma, i temi legati al rapporto tra i sessi, i temi legati a come affrontare il capitalismo, eccetera, insomma. Abbiamo cercato di trovare dei ganci sul presente, la visione tutto sommato attenta al suo tempo di Berlinguer e allo stesso tempo proiettata verso il futuro, un futuro che è nostro ma un futuro che è anche quello di chi deve venire o chi è più giovane di noi. Come lo avete strutturato? Il lavoro nasce come film concerto, quindi è aperto all'intervento live di Massimo Zamboni. A Pordenone lo presenteremo in questa forma, sono 50 minuti film sul quale Zamboni suonerà le sue musiche. Quindi diciamo che abbiamo lasciato delle finestre aperte per la composizione di Massimo. Poi in futuro vedremo, magari diventerà un film, che per ora è un film concerto. Ecco. Com'è stato affrontare questo materiale? Che impressioni ti ha suscitato? È molto emozionante, perché il funerale fu una grande assemblea di popolo, 1,5 milioni di cittadini, di iscritti al PC, di simpatizzanti, di persone che avevano conosciuto Berlinguer, che lo stimavano, confluirono a Roma per i funerali, ed è stato un momento storico e unico, direi, nella storia dei funerali, se vogliamo, degli uomini politici. E considerando che pochi anni dopo il PC smise di essere, è anche un momento simbolico di una svolta definitiva, direi, forse dell'ultima grande adunata di popolo del Partito Comunista Italiano. Com'è nata l'interazione con Zamboni? Con Zamboni avevamo già realizzato, come tu ricorderai, un film che si chiama God Save the Green, 10 anni fa, un film su Alberto Urbano, su York, un film che ci ha portato tanta fortuna e che continua a circuitare. Massimo fece la colonna sonora, quindi è un rapporto di lunga data, ci siamo sempre seguiti e sentiti, e sapevamo che con lui sarebbe andata bene e che avrebbe colto lo spirito del nostro montaggio, e viceversa, insomma, ci fidava del nostro montaggio per le sue musiche, insomma. Ci dai anche dei riferimenti web per saperne di più? C'è il nostro sito, che è Mammut Film, e poi stiamo un po' diffondendo sui social. Un'altra curiosità rispetto, ecco, al materiale su Berlinguer: cosa c'è di attuale nelle sue parole, nel suo pensiero? C'è un pensiero sull'idea che lo sguardo europocentrico non è sufficiente, bisogna allargare lo sguardo. A quell'epoca era il terzo mondismo, Berlinguer veniva da quella cultura, da quella storia politica, però è interessante risentirlo oggi e capire che una nuova idea d'Italia passava anche da un nuovo rapporto con i paesi, ad esempio, dell'Africa. C'è un pensiero sulla parità uomo-donna, che passa anche attraverso il sostegno alla campagna per il divorzio, successivamente anche per l'aborto. E c'è un'idea anche che per me è molto affascinante. Lui dice che al comunismo ogni generazione arriva in un modo diverso, citando Lieni. Ecco, credo che pensando ad oggi forse si sta arrivando al comunismo in un modo molto diverso da come ci arrivò lui, ma altrettanto forse importante ed efficace. A presto! A presto, grazie. Arrivederci a tutti. Il coregista Alessandro Rossi sul suo documentario Arrivederci Berlinguer, al cinema dal 10 al 12 giugno 2024 con Wanted Cinema. Con Lia Furxi, direttrice artistica della 27esima edizione di Cinema Ambiente a Torino dal 4 al 9 giugno 2024, ben trovata. Buongiorno a tutti. Spieghiamo cos'è. Cinema Ambiente è un festival cinematografico dedicato ai film a tematica ambientale, organizzato dal Museo Nazionale del Cinema a Torino, ma nei giorni del festival una selezione dei film sarà anche disponibile online per tutta l'Italia. Ci sono film lungometraggi, cortometraggi, internazionali ed italiani, ed è una vetrina sulla cinematografia green internazionale. Come si caratterizza questa edizione? Da una selezione di film che ci raccontano la ricerca di un nuovo rapporto tra gli esseri umani e la natura, che sia un rapporto sostenibile ma in senso profondo e quasi filosofico, direi. Abbiamo veramente tanti film che ci raccontano la nuova generazione, soprattutto europea, e la ricerca di un rapporto con i luoghi, le regioni, i posti in cui vivono, che sia un rapporto di convivenza possibile. Accanto a questi ci sono, come sempre a Cinema Ambiente, film che invece ci denunciano, ci raccontano situazioni che è bene che l'opinione pubblica venga a conoscenza, di inquinamento, di estreme conseguenze dei cambiamenti climatici o dell'importanza della conservazione della fauna e della flora selvatica o dell'acqua, del suolo, e quindi un ampio spettro di storie, di temi che ci aiutano ad essere spettatori più consapevoli. Quanti sono i lavori presentati e da quanti paesi? I film selezionati sono 76 e arrivano da 27 paesi del mondo diversi, per cui spaziamo da Taiwan alla Finlandia, dall'Egitto al Sud America, all'Antartide, all'Amazzonia brasiliana. Abbiamo veramente un vasto spettro di luoghi e popolazioni e gente diversa. Ci saranno autori ed autrici ad accompagnare le loro opere? Tutti i film saranno accompagnati dai registi in sala o con qualche collegamento online, e abbiamo poi ospite quest'anno d'eccezione Bruno Bozzetto, a cui consegniamo il premio della Stella della Mole Green, perché è veramente uno degli ambientalisti ante litteram del nostro paese, nonché ovviamente indiscusso maestro dell'animazione. Quale sarà la struttura del festival e quali i luoghi? La struttura del festival è suddivisa in diverse sezioni. Abbiamo il concorso dei documentari internazionali, il concorso dei cortometraggi internazionali, la sezione dedicata al cinema ambientale italiano, la sezione Made in Italy, poi una sezione di panorama con lungometraggi editi o inediti in Italia ma molto interessanti per i temi, e tutta una serie di eventi collaterali, incontri, approfondimenti, proiezioni speciali che accompagneranno e affiancheranno i film. Il luogo principale del festival è il Cinema Massimo a Torino, ma appunto altri incontri e altre proiezioni speciali sono fatte in diversi luoghi della città, dal Circolo dei Lettori a Barricalla, all'Imbarchino, al Palazzo dei Hit Garden, nonché anche nelle strade proprio adiacenti al cinema. E poi ci sarà anche una sezione dedicata al cinema ambientale realizzato dalle scuole italiane, che è il Cinema Ambiente Junior. Tutti i riferimenti web per i dettagli del programma? Il sito del festival è www.festivalcinemaambiente.it, con tutte le modalità di accesso, perché il festival è gratuito. Poi ci sono tutti i vari canali social. 27esima edizione di Cinema Ambiente a Torino dal 4 al 9 giugno 2024. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Lia Furzi. A presto! Grazie a voi e vi aspettiamo al cinema. Con Federica Alderighi, una delle organizzatrici della seconda edizione di Vision 2030, Festival del Cinema Sostenibile, a Noto dal 5 al 9 giugno 2024. Ben trovata. Ben trovato, grazie mille per l'invito, grazie per questa possibilità di raccontare il nostro splendido festival. Di cosa si tratta? Vision 2030 è il Festival del Cinema Sostenibile. Noi abbiamo 5 giorni per poter raccontare che cos'è il cinema sostenibile, perché c'è un'esigenza di raccontare la sostenibilità nel mondo del cinema e ovviamente mostrare quelli che sono i documentari e cortometraggi nella nostra selezione, perché ovviamente è una competitiva. Quindi abbiamo chiuso da poche settimane il bando nazionale e internazionale per documentari e cortometraggi, ci sono arrivati tantissimi lavori. Com'è strutturata questa edizione? È molto ricca, dal 5 al 9 giugno con una data prima, quindi iniziamo con il 4 con la pulizia delle spiagge insieme al Moscerini Film Festival e Lega Ambiente a Calabernardo e le scuole di Noto, in particolare la Giuseppe Melodia. Noi apriamo la kermesse, che non è soltanto cinema e proiezioni ma molto molto altro. A Noto, perché è la città che ci ospita, noi faremo una serie di attività legate alla cultura, legate alle attività sostenibili. Abbiamo intanto la proiezione di Food for Profit di Giulia Innocenzi il 6 giugno, che ci racconta dal punto di vista del cinema un aspetto dei 17 punti dell'Agenda 2030, a cui noi ci rifacciamo sia nel nome ma anche nello spirito ovviamente del nostro festival. Ovviamente abbiamo scelto anche queste date per un motivo, perché il 5 giugno è la giornata mondiale dell'ambiente, quindi sicuramente questo determina moltissime delle nostre attività, tra cui anche la presenza del World Food Program Italia, che è la fondazione che promuove e sostiene in Italia l'attività del Vulture Program, e che ha tutta una serie di iniziative per sensibilizzare alla lotta contro la fame nel mondo, ed è una delle più grandi agenzie umanitarie dell'ONU, che appunto è anche l'Agenda 2030 a cui noi ci rifacciamo, e c'è un rapporto molto stretto con loro anche nelle nostre attività. E ovviamente il nostro fulcro è il Teatro Tina di Lorenzo, dove ci saranno le nostre proiezioni, dove nelle pomeridiane mostreremo i documentari e cortometraggi in gara, e le nostre serate sia di apertura che di chiusura, e la nostra serata di gala finale. Tra l'altro abbiamo anche una partnership con Rai Cinema Channel, che ci ha fornito dei visori di virtual reality, quindi nel nostro corner al Teatro di Lorenzo, tutto ovviamente gratuitamente. Quanti sono i titoli che presentate e com'è stata la scelta artistica? Sono circa una ventina per categoria. Noi abbiamo prediletto sia le tematiche che si rifanno ovviamente all'Agenda 2030, quindi 17 punti che erroneamente si pensa soltanto all'ecosostenibilità, però ci sta per esempio il quinto punto dedicato alla parità di genere, ci sta la pace, quindi insomma ci sono diversi punti della sostenibilità, diversi diritti che devono andare insieme a braccetto per poi portare al concetto completo di sostenibilità. Quindi i nostri titoli non parlano soltanto di ambiente, parlano anche di ambiente. Parlano molto di diritti, e questo sicuramente è un aspetto fondamentale. Ma l'altra categoria, insomma l'altro tipo di scelta i nostri selezionatori hanno operato, è anche dovuto a come sono stati realizzati questi progetti. Quindi con un rispetto per l'ambiente, appunto, importante, perché il cinema sostenibile è il nostro obiettivo, quindi la divulgazione. Abbiamo avuto negli scorsi giorni registrazioni che saranno mandate in rete nei prossimi giorni, e due talk che abbiamo fatto online con ospiti illustri, in cui abbiamo proprio parlato dell'importanza della sostenibilità di andare cinematografica, cioè quindi proprio di come il cinema debba essere sostenibile anche quando viene prodotto, quando c'è una produzione in atto, fondamentale, le emissioni. Ci sono tutta una serie di protocolli che si stanno cominciando a sperimentare ormai da qualche tempo, che sono fondamentali, e quindi l'adozione di questi protocolli e il rispetto dell'ambiente, della sostenibilità, è fondamentale nel momento in cui si producono dei prodotti audiovisivi. Con i documentari a volte è un pochino più semplice, già con dei progetti di cortometraggio è un pochino più complesso, con i film lunghi ovviamente è decisamente un'altra storia, ma ci cominciano a essere delle produzioni importanti che stanno cominciando a fare un buon lavoro. Ecco, insomma, noi cerchiamo di essere un punto di riferimento anche per parlare di questi argomenti, che per noi, che con le nostre società, parlo per me che ho la Dadan Produzioni, ma anche ovviamente Cleverage, Dire Fare Cambiare l'associazione, My Vision, produttore principale, e siamo anche appunto produttori cinematografici, per noi è fondamentale parlare di questi argomenti. Ci dai tutti i riferimenti internet per i dettagli del programma? Ci potete trovare sui social, quindi Vision 2030, e sul nostro sito internet, dove potete trovare tutte le informazioni, vision2030noto.it. Ci si può già prenotare agli eventi e potete trovare le informazioni per potervi recare. Comunque il punto di riferimento principale è il Teatro Tina di Lorenzo di Noto, dal 5 al 9 giugno, e poi si va tutti a votare, ovviamente. Seconda edizione di Vision 2030, Festival del Cinema Sostenibile a Noto, dal 5 al 9 giugno 2024. Un saluto e un ringraziamento ad una delle organizzatrici, Federica Alderighi. A presto! A presto, grazie! Con Andrea Paco Mariani di OpenDDB Distribuzioni dal Basso per le novità del mese della piattaforma. Ben trovato! Ciao, buongiorno a tutti e tutti. Abbiamo parecchie novità questo mese su OpenDDB, e tra l'altro il mese di maggio ho avuto una fortissima partecipazione, più della media, anche di persone e comunità che hanno attraversato la piattaforma, e segno anche appunto di un periodo molto attivo dal punto di vista delle proposte. Anzitutto partiamo dalle proposte in sala. oltre alle tournée già raccontate in questi mesi, di diversi film che abbiamo lanciato in questi mesi, da Kissing Gorbachev, Packer Seeker, Sconosciuti Puri e a molti altri, adesso lanceremo dal 13 giugno nei cinema italiani, prima della fine, Gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer, notizia abbastanza nota di tutti, a giugno ci sarà il 40° anniversario della morte di Berlinguer, e appunto abbiamo deciso anche per questo di accogliere, di fare questo pezzo di strada insieme con Samuele Rossi, Vicky Visivi, già autore di DVD con altri suoi film precedenti, uscita nelle sale per giugno e in divenire, di questo lavoro molto intimo. Fondamentalmente è una raccolta di testimonianze, di immagini inedite proprio degli ultimi giorni di vita di Berlinguer, che sarà in concorso ufficiale anche al Biografin 2024, quando ci sarà il Biografin di Bologna, e da lì inizierà il percorso sale. Ripeto, è un film per certi versi anche molto intimo, quindi non aspettatevi il classico biopic su un personaggio pubblico, è una cosa un po' diversa, tant'è che insomma ci ha colpito molto anche a noi, e abbiamo deciso di sostenere il lavoro di Samuele, che appunto già conosciamo, che ha fatto già anche altri film molto belli che ha avuto l'occasione di aiutare in questi anni. Mentre per tutto quello che riguarda il resto della galassia OpenDB, ha tutta una segnalazione: da fine maggio abbiamo fatto anche la release ufficiale in DVD di Kissing Gorbachev, ci saranno diversi step nel senso della distribuzione del film, il film continua a essere anche nelle sale, negli spazi sociali, e continua la sua tournée ormai da oltre 6 mesi. Su OpenDB adesso si può richiedere anche il componente DVD con tutto il merchandising associato, e tra qualche mese avvieremo anche lo streaming sempre su OpenDB, appunto perché è la logica continuazione di un percorso distributivo dal basso. Mentre dal punto di vista delle uscite VOD di questo mese, abbiamo avuto tante uscite molto interessanti, qui provo a farmi una sintesi. Anzitutto The Tower, che avevamo già raccontato il mese scorso, che avevamo proposto in una sessione nelle sale cinematografiche da aprile, un film di animazione norvegese del regista norvegese Matt Grerud, a tema Palestina. C'è estrema urgenza di continuare a parlare di Palestina, e soprattutto di Palestina dal punto di vista della vita che conducono i palestinesi nei territori occupati. The Tower è un modo molto particolare per raccontare questa situazione, perché è un film interamente in animazione, e film di animazione che raccontano della vita del popolo palestinese ce ne sono molto pochi in giro, e ovviamente un film che ha ricevuto anche molti premi internazionali, visto i temi e il modo in cui vengono raccontati, e per noi è un piacere portare questo film in anteprima in Italia, sia nelle sale, quindi il film è anche a disposizione per proiezioni pubbliche, sia in streaming. E le altre uscite ve ne segnalo sicuramente tre. Uno in realtà è una prosecuzione, avevamo dovuto modo di parlare del progetto realizzato dal nostro Nicola Zambelli nel carcere Nero Cristiano di Brescia, un progetto molto particolare che si chiama 11 giorni, è un progetto che in realtà nasce come progetto seriale di 33 episodi da un minuto, ma che poi vengono racchiusi anche in un formato mediometraggio di 33 minuti, e che è quello che potete usufruire su OpenDB. Il progetto ibrido sta avendo un impatto molto importante, almeno per quello che riteniamo opportuno, consapevoli che non solo di carcere c'è sempre urgenza di parlare, e ultimamente anche più del solito, ma che questo progetto, oltre alla forma molto particolare, dà voce direttamente alle parole e alle testimonianze di chi carcere lo vive dentro, cioè chi è costretto alla condizione detentiva, tra l'altro con la scelta di farlo solo attraverso le voci e immagini in qualche maniera neutre girate dentro del carcere, e anche questa scelta di stilistica registica ha avuto un impatto molto forte. Insomma, oltre che il progetto sta andando adesso di città in città per le presentazioni pubbliche, è anche disponibile in streaming su OpenDB per chi volesse vederlo. Ho altre due segnalazioni ancora, uno è assolutamente, che qui teniamo di segnalare, Romagna Tropicale, un documentario indipendente a metà tra il documentario di osservazione e l'inchiesta su ciò che accade ormai un anno fa, perché l'abbiamo pubblicato apposta proprio per l'anniversario dell'alluvione qui in Emilia Romagna, e che ovviamente da un punto di vista dal basso militante prova a non solo raccontare cosa è successo, ma non in termini di cronaca, ma in termini di concause, ma anche cosa è successo dopo. Quindi ci sono ancora tantissime famiglie sfollate, molte di queste purtroppo probabilmente soprattutto chi vive sulle colline, sulle montagne romagnolo rischiano di non tornare mai più nelle loro case, e questo ovviamente in una situazione così contorta si va a innestare ovviamente anche chi poi fa speculazione sulla pelle delle persone e molto altro. È un piccolo documentario ma molto prezioso che consigliamo di vedere. E l'ultimo, ma non meno importante, invece è la release, nel senso che non è una nuova uscita, ma è una nuova uscita su DVD a distanza da quasi 10 anni dall'uscita del film, Complimenti per la festa, il film che racconta la nascita e la tournée dell'album Catartica dei Marione Cult, fatto per il ventennale dell'uscita. Adesso ci sono i festeggiamenti, tra virgolette, le celebrazioni e la tournée per i 30 anni, in accordo con l'autore Sebastiano Lutensinga e con la band. Abbiamo fatto anche una nuova uscita in streaming per celebrare questo momento. Un abbraccio, Pago, alla prossima! Grazie a voi, a presto! Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.